questo 2 giugno sarà ricordato per la prima edizione del premio Sandro Pertini, destinato ad uno studente meritevole e particolarmente portato al giornalismo politico, segnalato dalla facoltà di giurisprudenza della Sapienza. Il fortunato avrà la possibilità di passare un'intera giornata con la firma di punta del quotidiano l'intellettuale e giornalista Cesare Castro e di firmare assieme al noto scrittore un articolo che domani sarà pubblicato sull'edizione nazionale della testata giornalistica. Un progetto che nasce sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, lo stesso Presidente... Castro, buongiorno. Buongiorno, Castro. Onorevole, come va? Castro, mi servirebbero 2 righe per la festa della Repubblica. Ho un'inaugurazione domani mattina e vorrei dire qualcosa. Sulla festa della Repubblica, dunque, mi faccia pensare... Che poi, onorevole, mica posso scriverglieli tutti io questi discorsi. Poi sono uguali a quelli di Marturi e Salvati, siete pure di partiti diversi. Che facciamo? La grande coalizione pure nei contenuti. Castro, senti, lasciamo perdere questo discorso. Ho appena finito una seduta a Fiume in commissione affari costituzionali. E vorrei arrivare in tempo alla chiusura dell'anno sociale del Rotary. Non ho tempo, Castro. Giusto 2 righe. Qualcosa sull'unità, la questione sociale. Bene, va bene, va bene, scriva questo, scriva... l'afflato speranzoso con cui i nostri partigiani onorarono la bandiera, affrontarono il mondo nemico in quei momenti cruciali, deve divenire il nuovo prodromo dell'iscindibilità, di un senso comune votato alla questione operosa del nostro popolo, perché l'Italia ritrovi il comune denominatore del marchio di fabbrica. Non vuol dire un cazzo, però va bene, lo tengo, lo tengo. Io invece lo trovo illuminante, Castro, definitivo. Bene, mi raccomando, bella pausa prima di prodromo, un'accentuazione di tono prima di scindibilità, così si chiama anche l'applauso, onorevole. Castro, la riunione della commissione sulla sicurezza delle reti pubbliche è stata fissata per venerdì, Castro, io non mi dimenticherò di lei. Sento troppo gentile. Ah, non si dimentichi quel piccolo accenno a cui tanto teniamo in trasmissione. Ah, no, non me ne sono dimenticato. Sa, Castro, questa sorta di pandemia, di agitazione sociale per ragioni poi immotivate, dà un po' fastidio ai nostri. Proprio immotivate non... Castro, sono immotivate! Garantisco. Ora la saluto. Guardami in faccia, l'hai fatto di nuovo. No, non provare a mentirmi, l'hai rifatto. Te ne sei accorta? Mi fai scema, certo che me ne sono accorta. Vabbè, è capitato, Luisa. No, Cesare, tu hai un problema, non è normale. Non succedeva da tanto tempo, però, eh. Hai parlato con Angela? Sì, ne ho parlato. E dice che è sempre la stessa storia. Ansia da prestazione, stress, e poi la solita menata sul deficit da accudimento nel periodo dell'infanzia, tutte uguali, sì, comunque le diagnosi. Va bene, se hai qualcosa da dirmi, fallo subito. Fra 10 minuti parla te la diretta e non ho più tempo. Senti, io questa storia della diretta streaming, della tua giornata tipo, la trovo veramente agghiacciante. Non ricominciare, Cesare, ne abbiamo già discusso, una trovata geniale, salvifica. Da quando col delitto di Santo Oreste non ne ha azzeccata una, da quando il figlio ha confessato, ho perso ogni credibilità. Eppure la mia ricostruzione in 18 puntate della suocera psicotica, beh... Non faceva una piega. Certo, una 77enne con il morbo di Parkinson avanzato che si diverte a giocare al lancio dei coltelli con la figlia e Eloisa. Senti, era perfettamente sensato, c'era pure movenza. E poi questa storia della diretta streaming vi fa risalire di quota. Solo ieri 6.000 visualizzazioni. Ok, e perché oggi la diretta nel mio studio? Perché gli autori volevano dare una dimensione più umana al tutto. Approfondire noi due, vedere come ci comportiamo. Le dinamiche di una coppia... Il giornalismo italiano. Vabbè, io non mi presto a queste cose, continuo a fare il mio come se niente fosse, non voglio sapere. Come okay? Al solito. Oh. Hai sentito, Lorenzetti? Sì, mi ha chiesto un favore per la diretta di domani, ordinaria amministrazione. Novità sulla pista delle registrazioni? Sì, ma non so se voglio andare a fondo, è una storia... Devo trovare un modo di chiedere senza stare nell'occhio, però... Non al solito. Senti, Luisa, tu sei proprio sicura... Che il vomito sia solo un effetto collaterale, eh? Emanuele dice questo e mi fido. E poi non ho nessuna intenzione di interrompere la prometazina. Sta giusto iniziando a fare effetto. Ho detto che mi fido. Bene, ho giusto il tempo per truccarmi. Ah, e quando parte la diretta? Sarebbe molto bello che tu mi dessi una mano. Ci provo. Bravo. Ciao a tutti. Nello, 24 anni, di Roma. Studio filologia alla Sapienza. Ed è la prima volta che partecipo a questo contest e sì, insomma, l'ho scritta per una che Vabbè, meglio leggere. Sì. Senti, quando arrivano quelli per l'intervista, apri tu, eh. Ma chi arriva per l'intervista? La moglie di Guerrini, quello scomparso mesi fa. Ma perché l'intervisti qua? Per quale motivo? Perché non vogliono venire in studio da me. Dicono che è lontano, non prendono i mezzi, non guidano. Endecasilla bisciolti a rima baciata. No, non è baciata la rima. Però c'è, e sono terzine. Vabbè, la forma non è importante. Sì, però sbrighiamo, c'è il mio studio, non è una sala a ricevimenti. Titolo: Alessandria. Perché lei si chiamava così, Alessandra. Allora ho cercato di creare un collegamento con l'ultimo periodo della poesia greca. E vabbè, poi le suggesti ve la fate voi. E poi aspetto pure lo studente per quel concorso del giornale. Vorrei sbrigarmi, finire e andarmene via. Su. Sul tuo viso si leggeva indefinita erudizione. E mi sbandavo con Cupito sulla fronte e sul frontone. Eri Niche di Samotracia, artefatta e un po' barocca, perla così irregolare, tanto chioccia quanto sciocca. E direi, perché di sicuro non mi faccio il 2 giugno in città per il premio del giornale. Alessandria sì, ma d'Egitto, apotropaica ai Tolomei, cartesiana Cleopatra, coccolata dagli dei. Misuravo il tuo soppalco, gli occhi vigili, da falco mi stendevo sull'usura della diafana fessura. Jessica? Sì, sì, sono a casa, ciao. Niente, stavo facendo... Ho cambiato idea, nulla. No, Enzo non è qui. Tu dove sei? Ah, bello. E come sei vestita? Così. Mi piace immaginarti. E i capelli? Oh. E le scarpe? Ah, senza calze. Giusto, fa caldo. Sì, sì, vi raggiungo, certo, sì. È giusto il tempo di andare in bagno e... darmi una sistemata e vengo. Aspettatemi, aspettate. Scrivono da giù, sono arrivati gli ospiti e la signora. Ospiti, signora, arrivati, fateli passare, ospiti. Ho capito. Grazie. Oh, prego, prego, signore Guerrini, prego. Prego. Ah, prego, prego. Scusate, potete abbassare il condizionatore, grazie. Sì, ma fa caldo. Provoca secchezza alle mucose e anche mal di gola a volte. Scusate? Se ci siamo permessi di disturbarvi qui, ma il suo studio è troppo lontano, signora Giannini, e io se posso evito autobus e metro, non funzionano affatto, e l'idea che i mezzi di locomozione non mi possano locomuovere mi angoscia. Come sta, signora Guerrini? Così, cos'altro possiamo fare? Ci facciamo forza. Lei non si arrabbierà se ho portato con me mio fratello e il cugino di mio marito. Piacere. Anthony Deodato, signor Castro Sala, seguo sempre in TV, però devo farle alcuni appunti, nei suoi saluti politici, sempre ospiti di grandissimo livello, argomenti di grande attualità, però mi permetta, la parte musicale è un po' trascurata. Anche le verità sono spesso trascurate. Forza ragazzi, fate i bravi, e comunque seguiamo sempre anche lei, signora Giannini, è un vero peccato che abbiano interrotto la programmazione di Misteri Italiani, per sostituirla poi con cosa? Quello stupido programma sui clandestini, il Maghreb, che dico io, cosa ce ne importa a noi? Come se non fosse già abbastanza vederseli in giro ovunque. Il mercoledì non è più lo stesso senza i suoi delitti eccellenti. Beh, ho preferito prendere un periodo di pausa. La cronaca nera spianca. Immagino. Bene, allora abbiamo alcuni minuti prima della diretta. Io volevo spiegarvi brevemente come funziona. Ma noi lo sappiamo già come funziona, la seguiamo da giorni. Ah, perfetto, allora, da quando partiamo io non potrò più interrompere la registrazione, per cui vi prego di essere il più naturali possibile. Non c'è problema, ne sono più che abituato. Anthony, il cugino di mio marito, è un cantante. Bene, ha già inciso un disco? Beh, diciamo che è in una fase emergente. Però a breve. Sta preparando il suo provino per un nuovo talent show. La stella che brilla si chiama, sul primo canale. Credo sia davvero un bel format. Un cantante emergente pop interpreta una canzone, mentre un ballerino non ancora famoso in coppia con un VIP del mondo dello spettacolo concludono l'esibizione con un passo a due. E poi vengono giudicati da una giuria di stilisti, opinionisti televisivi e gente comune. Originalissimo. Bene, invece suo fratello di che cosa si occupa? Ricercatore in filologia romanza e poi mi impegno molto nel sociale. Si ama la politica. Bene, allora potrebbe fare due chiacchiere con Cesare, vero caro? Magari più tardi. Va bene, adesso ricapitolando, io farò un breve cappello introduttivo sulla vostra storia, raccontando tutti gli elementi che ho raccolto. Lei ovviamente potrà interrompermi. Poi una breve intervista e l'appello che mi hai chiesto. E io? E tu dopo, Anthony, dopo. Il tutto con la massima naturalezza, ovviamente, senza dare l'idea di qualcosa di precostituito o stabilito a tavolino. Ma del resto non lo è affatto. Infatti questo è il concept dello streaming. Le angolazioni di ripresa sono queste due. Tu, Cesare, ovviamente saluti con me. No, io non saluto niente, sto scrivendo l'articolo. Ma che costa, Cesare? Perché è sempre così difficile coinvolgerti? Sono stanca, tu te ne infischi di me, di quello che voglio, del mio orologio biologico. Sono una donna, Cesare, non della carne da smanettare, cadenza 15 ore! Benvenuti, amici del web, e da chi ci segue dal canale 721 del Digitale Terrestre. Sesta diretta per quello che è stato definito esperimento di giornalismo, verità dell'anno, location di eccezione per questa vigilia della festa della Repubblica. Infatti siamo nello studio di Cesare Castro, una delle penne più argute del giornalismo politico, cartaceo e televisivo, nonché mio compagno di vita. Cesare, saluta. Buon pomeriggio a tutti, è un piacere avervi qui nel mio piccolo studio presso una delle più importanti testate giornalistiche italiane. E adesso entriamo nel vivo di una delle storie di attualità più sconvolgenti degli ultimi mesi, di cui sicuramente... Di cui i giornali e televisioni non parlano più da troppo tempo. E infatti è un piacere e una fortuna poter intervistare in esclusiva, dopo mesi di assenza dalle reti, la signora Maria Sole Corelli, moglie dell'imprenditore Vito Saverio Guerrini. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti gli amici in diretta. Bene, è una storia che ha lasciato e continua a lasciare il paese senza fiato. È il 17 dicembre dello scorso anno, quando il signor Guerrini, uno degli imprenditori del tessile più conosciuti in Italia e all'estero, esce da casa, solo, per l'acquisto di alcuni regali di Natale. La signora Guerrini non avrebbe mai immaginato che non si sarebbero più rivisti. Una sparizione incredibile. Paragonabile solo a quella del brigatista Solfinetti nell'87 e quella del gius lavorista Lupini Saluzzi nel 93, anno delle stragi. Ma serve chiarezza, un filo rosso collega tutte queste storie. Vittorio, per favore! Indagini di polizia, carabinieri, appelli del mondo politico, dello Stato civile, non solo varsi a nulla. Infatti da oltre 6 mesi del signor Guerrini nessuna traccia. Signora Guerrini, come può una moglie, una donna, poter sopportare una tale situazione? Me lo chiedo anche io. Mio marito era un esempio di grande uomo, dedito alla famiglia, al lavoro, presente, ineccepibile, un benefattore impegnato nel sociale, nella solidarietà. Vito! Vito, io lo so che ti hanno rapito, Vito! Erano invidiosi delle tue importazioni, del tuo successo, Vito! Se ti stanno facendo vedere questo programma, dillo! Dillo ai tuoi aguzzini che siamo disposti a pagare qualsiasi cifra! Signora, non abbia paura! Invece niente! Niente! Se non fosse per tuo cugino, Vito, l'unico, il solo che non mi ha mai abbandonata, l'avrei già fatto finito! Il signor Guerrini era proprietario di uno dei patrimoni imprenditoriali più ingenti della nazione. Adesso rimane tutto a lei, signora Guerrini, ma sembra che tutto sia congelato, che lei non possa accedere ai fondi. La burocrazia non me lo permette, la banca mi concede giusto di godere dei sostentamenti, ecco, di ogni giorno, qualche vestito, la spesa, ma deve passare un anno dalla scomparsa perché io possa ottenere qualcosa. Bene, lei ha più volte dichiarato in questi ultimi giorni che è convinta della pista del rapimento. Come fa a essere così sicura? Istinto di moglie, ma anche una prova. Nella cassetta delle lettere di 3 giorni fa ho voluto riservarla in esclusiva per questa diretta. Eccomi! Ah! Vito! Vito! Che cosa hai fatto, Vito? Che cosa ti stanno facendo? Dove sei? Vito, che ci chiedessero un riscatto almeno! Siamo pronti a trattare, a pagare, Vito! Mi è rimasto solo questo, Vito! E quanti pezzi ti hanno fatto, Vito? Solo un dito, Vito, un dito, Vito, un dito! Io lo so che siete voi, gli stessi delle altre sparizioni eccellenti. Le forze dell'ordine non vogliono sentirmi, dicono che sono un visionario, ma io dimostrerò tutto, tutto, non mi fermerete. La strage di Piazza Fontana, il mostro di Firenze, il delitto di Via Poma, l'assassinio Pasolini, la strage di Bologna, l'anarchico Pinelli, è tutto un complotto, un unico disegno, non mi fermerete. Io ho i nomi di tutti, verranno a prendervi sulle vostre poltrone di velluto nelle stanze dei bottoni. La P2 non è morta, esiste ancora, è opera, poteri occulti, massoneria, radicale, io c'ho tutto, non mi tocchi, non mi tocchi, anche lei un colluso, un peduista, peduista, anche se sono ricordo, un peduista, se sono ricordo, e poi tolto, mi non sono ricordo, non sono ricordo, non sono ricordo, basta, me ne rispazio, Vittorio. Così, Maria Sollerosa, non posso vederti così, dai. No. Ti canto la canzone. Sì, fammi quella là. Grandi rivelazioni per quello che è stato definito giornalismo verità. Infatti la pista del rapimento sembra diventare sempre più reale. Ma manca una richiesta di... che m'hai preso il cor, sarai per me il solo amore. Mettiti bene, Antonio, mettiti... No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Giannini, è l'unico modo per calmarmi, e poi che le costa, eh? Diamo un po' di spazio a un ragazzo che merita di farsi sentire con tutti i cani che vanno in televisione, almeno una bella voce, si fidi, il pubblico apprezzerà. Posso continuare? Grazie. Prego. Lontan da te è morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Potrete vedermi stasera sul primo canale, La Stella che Brilla. Televotatemi. Bravo, bella voce, bella voce, bella di petto, c'è proprio la voce di petto, si sente. Un po' troppo spinta. Che senso? Lo dico impostata perché mi dicono che dovrei alleggerire i suoni in testa, favorendo un'escursione della laringe un po' più ampia, mettendo i suoni sul palato molle, no? Le faccio un esempio. Te, anziché te, la differenza è notevole, perché questo è un paese che rinnega la propria cultura musicale e nel bel canto che si trova il vero DNA della tradizione musicale italiana. Ma sono tutti fissati con ste vocine in testa, tutte leggerine, tutte all'inglese, mi permettano, dico, mi permetta anche un po' in falsetto. Oh, ma in falsetto bellissimo. Sa che dicono? Che io, lo dico, io non sono abbastanza pop. Incredibile. E la tradizione dei grandi tenori, allora dove la mettiamo? Beniamino Gigli, Alfredo Di Stefano, il grandissimo Mario Di Bravissimo, me lo ricordo. No, la mettiamo? No, me lo dica. Ah, me lo deve dire, signor Castro. No, me lo deve dire. Signor Castro, me lo dica. Non mi occupo di critica musicale. È qui che si sbaglia, perché bisogna trovare un modo di riconciliare la tradizione e l'innovazione nella musica. Io posso farlo. Cantare la modernità con la voce del passato, risonanze antiche in accordi contemporanei. Perché non dedichiamo uno speciale della sua trasmissione a questo? Ma no, noi ci occupiamo di politica. Poi facciamo degli intermezzi tra un litigio e l'altro dei suoi ospiti. Gli ospiti io non sono litiga. A sua disposizione. C'ho pure il pianista legge a prima vista. Ma che pianista? Guardi, ne parlo con gli autori. Si fidi, vincerete i share. La gente ama la buona musica. C'ho la demo. Ma che la demo? Ritorniamo al caso Guerrini. Nell'attesa di una richiesta di riscatto, sì. Signora Guerrini, che cosa vorrebbe dire a suo marito se potesse ascoltarla? Vito, sono una donna forte e tu lo sai, col sostegno di mio fratello e di tuo cugino sto andando avanti. So che mi vorresti serena e così sarà. Ai rapitori dico, diteci che cosa volete, ma non fate ancora più del male a mio marito, prego. Io la ringrazio, signora, per la sua forza e per aver condiviso con noi questo dettaglio così illuminante. Adesso volevo ricostruire con gli amici in sala quel 17 dicembre dello scorso anno. Ma la spinga! Ma che impazzito, ma la spinga! È pericoloso, fai male non solo a lei! Ma guardi, io non pensavo di essere questa. Ma lei è una considerato inaccettabile, il concepito del fumo passivo uccide come quella tipo, non gliel'ha mai detto nessuno! No, ma guardi, senta, io sono nel mio studio, faccio pure quello che... l'educazione è intera! Noi ce ne andiamo! No, ne andiamo nella sua stanza! No, ecco, l'altro di lei, c'è la sala riunioni! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Sarà una crisi! Lei è un uomo brillante, Castro. La ringrazio. Ho letto le sue ultime pubblicazioni, un grande fiuto per il giornalismo d'inchiesta. Gentilissimo. Anche se alla fine l'impressione è sempre una, è come se lei non volesse tirare le fila del discorso. Cioè? Leggo sempre un po' di reticenza. È come se il colpevole lei lo sapesse ma non volesse svelarlo. Sua opinione la rispetto in quanto tale, adesso la saluto. Aspetto un ospite, la uscita da quella parte, è stato un piacere aver fatto la sua conoscenza e rivederci. Le rubo solo un minuto, Castro. Credo che la mia presenza qui oggi possa essere l'incontro fortunato, una svolta segnata dal fato per entrambi. Non la seguo. Lei pensa che io sia un semplice ricercatore. Ed è la verità, apparentemente. Infatti è vero, io ricerco, ma non mi basta l'ambito letterario, perché la letteratura è cosa morta. Io l'ho capito da un pezzo, ma l'attualità, le trame del potere, il marcio dello Stato sono cosa viva e vitale. Continua a non capire dove vuole arrivare. Castro, se lei dovesse definire qual è il sacro graal del suo settore, quell'enigma su cui tutti vorrebbero far luce, cosa le verrebbe in mente? Mostro di Firenze. Ah, roba vecchia, non importa più a nessuno. Io parlo di qualcosa di molto attuale. Uno dei più grandi pasticci della storia repubblicana. Ne parlano tutti ultimamente, persino il presidente ha dovuto esprimersi in merito. La trattativa Stato-mafia. Tombola! Non mi faccia ridere, quella è l'araba fenice del giornalismo italiano. Una storia montata ad arte solamente per vendere giornali. Sì, ci sarà pure qualcosa di vero di quello che scrivono i quotidiani, ma niente di quello che si scrive, sono sicuro. Io ho le prove. E dove le avrebbe trovate? Nella biblioteca della facoltà di lettere? Mio cognato aveva notoriamente rapporti con ambienti di una certa rilevanza. Vero. E aveva anche un archivio utile al ricatto, allo scambio di favori. Io l'ho spulciato tutto quell'archivio ultimamente, Castro. Mia sorella ha altro a cui pensare. Castro, il fascicolo esiste. Il fascicolo della trattativa? C'è tutto dentro, il papello, l'agenda rossa, le deposizioni, i telegrammi, tutto in un unico fascicolo. E dove sta? Nell'archivio di suo cognato? Non faccio ironia, è chiaro che non si trova lì. Adesso è in mano a qualcuno, perché questo qualcuno è al di sopra di ogni sospetto. Il presidente. No, troppo è pericoloso. Quel fascicolo non può essere tenuto, ma nemmeno distrutto. E quindi pare che il presidente l'abbia affidato a qualcuno. Qualcuno di inimmaginabile. Un parente. Impossibile. Presidente non ha parenti. Presidente aveva una sorella che è morta qualche anno fa, qualche cugino lontano. Presidente è notoriamente un uomo solo. E qui casca l'asino. Un parente c'è. Un nipote. Presidente della Repubblica ha un nipote. Figlio di un'avventura della sorella, cresciuto da lei in gran segreto perché a quei tempi il presidente era ministro degli esteri. Ora sembra che il ragazzo sia mantenuto dal presidente nell'ombra e che il presidente gli abbia affidato il fascicolo, di cui probabilmente il ragazzo non conosce nemmeno il contenuto. Lei in quale romanzo di intrighi internazionali ha letto tutta questa storia? Lei è un uomo di poca fede, Castro. Io ho individuato chi è il nipote. Si ricrederà, le darò tutte le prove che vuole. Potremmo mettere le mani su quel fascicolo. E a che pro? Possiamo pubblicare, rendere noto, informare. Il sogno di ogni giornalista o no. Sia concreto. A me non darebbero retta, mi prenderebbero per un visionario. Non sarebbe nemmeno la prima volta. Ma con lei accanto avrei tutt'altra credibilità. Mi dia un'occasione, che le costa? Va bene, mi ha convinto. Porti il fascicolo. Leggeremo, analizzeremo, verificheremo, pubblicheremo. Bene. Ora la lascio, non voglio disturbarla. Non si preoccupi, mi farò sentire io. Ho giusto il tempo di completare le mie ricerche, fare delle controprove. Sono a un passo dal completare la scalata. Stia attento a non cadere prima. Non abbia paura. A presto, Castro. Arrivederci. Nello! Ciao, dove sei? Che noia, sembra a casa. Ma fare che poi? Ma è Angeli con te? È a mezz'ora che lo aspetto. Sono davanti alla facoltà. C'è un sole bellissimo. Normale, come al solito. Perché me lo chiede, eh? Curiosone. Canottiera, giubbottino di pelle, leggings, capelli sciolti, zeppa e niente calze. Ma vieni o no? Ci raggiungi? Dai, sbrigati tu, Enzo, siete le solite minchie pallide, ciao! Alla buona allora, che successi stavolta? Da pari a Maronna? Ho perso tempo, c'era traffico, va bene? Calmati, Che se c'è qualcuno che deve essere nervosa, qua sono io, le ho portate i soldi. Certo, se no potessi andare. E rendicontare e consegnare. Allora, alimentari del Pakistano 2,50, parrucchiere coppia gay 300, edicola 2,50, che babaro 200. E perché non 250? Perché ha detto che sto mese non poteva. Negozio telefonini rubati 400. E mi pare il minimo dopo che li abbiamo salvato il culo. E a libreria? E a libreria... Devo essermi scordato, Jessica. Enzo, mi stai picchiando po' culo, Enzo, una ciavo da sta storia. Senta, libreria, mo scordai. Oh! Tagliami in da faccia, dimmi la verità. A libreria non ce l'ho fatta con loro, Jessica, non ce la feci. Non ce la feci. Enzo, io ti spacco l'ossa, Enzo, io ti piglio da sta muzzo, come sono morire, levati davanti l'ultimo perché ti sparo, perché ti sparo. C'è un'etica professionale, una dignità, la cultura non ci tocca. Sento bene, cadu sta testa, adesso dovevi spaddare un sciampo. Io ho un progetto chiaro, non ho nessuna intenzione di farmelo rovinare con la tua gran faccia di culo. Vieni a Roma per dimostrare chi sono, che se nella carriera non ci credevo, ne restavo giù. In Sicilia stavamo freschi. Qualche estorsione, un po' di spaccio di stupefacenti, giri po' pizza in capo a motrino, il brivido delle risse, il discoteca cornetta mattina dopo la fuga dalla polizia. Un cannolo che ricotta, bioscia che aggrenita, chiappara sicca, anciova salata, Jessica! Vedi che io a Roma ci sto bene, a Sicilia la salone. Maria, se ti sentissi con me, se ti sentissi rinnegare le origini, sputare sulle radici, vergogna! Penso... Non mi fai fare male a un passo, ti ho voluto io per questo progetto. E comunque io una libreria non ci voglio stesso! Ma aspetta, libreria ci voglio io! Tu non aspiri, chi sto proprio la casa, tu non sogni! Io sì, io un sogno ce l'ho! Jessica Brividera, la prima boss femmina dell'isola, una conquista per il sesso debole, auscia che è guadagnosa, con pleno miglienza. Nello l'hai sentito? Sì, l'ho sentito. A proposito, siamo pronti, tutto a posto, mancano solo i dettagli, poi tutto a posto. Enzo, ma tu ti rendi conto se questa cosa va in porto possiamo tornare vittoriosi, Enzo? Io ci spero, ma siamo sicuri che lui è il nipote del presidente? Certo, Don Mimì non si sbaglia mai, lo sai. Enzo, ti rendi conto, saremo... Saremo una luce per tutte le famiglie, soprattutto per quelle di Caltabellotta, Caltavoltura, Caltanissetta e Caltagirone. Enzo mi fa una statua. Io già mi vedo a sto corpo, mi fa una statua, Enzo. A statua mi fanno. Enzo, fa cavolo oggi, Enzo. Jessica, mi ricasse ma mezz'assata, se passa gente ci balla ma samba. C'hai la pistola, ci sparo. Jessica, vedi che se passa l'anello, capisce tutte cose. Jessica, fai a brava, fai. Ma sei bello, ciccigno. Jessica, ti rissi, capi, ora non è un momento. Enzo, ma scassato a miglio, ma scassato. Io mi metto in mano, che non si sa che non si canta, non ci faccio io. Mettevo il tuo panino da riprendere. Jessica, ti rissi, capi, ora non è orario. Stavo schizzando, è orario. Amoni. E perché a bossa? Bossa. Ma non è importante che non sia la... Ma che ti interessa che non è vero? Senti, impara la teoria finché sei giovane. In Italia la gente sente inconsciamente il bisogno di credere a quello che legge nei giornali perché gli rafforza nella convinzione di vivere in un paese normale. Chiaro? Sì, ti saluto, è arrivato lo studente per quel concorso del giornale, giurisprudenza, sì. Speriamo di sbrigarci perché non c'ho proprio voglia. Sì, un attimo, vabbè, ti saluto. Ciao, avanti. Avanti, c'è un posto. È permesso? Prego. Noemi Valletti, matricola 6400-6310, facoltà di giurisprudenza della Sapienza di Roma. Sono stata selezionata fra tutti gli studenti della facoltà dalla commissione del professor Vasciallo Piacere. Cesare Castro Piacere? Ma deve essere un grande onore e una grande soddisfazione per lei oggi essere qui. E me coglioni! Beh, devi iniziare subito, cosa ne pensa dell'articolo? Io non ho molto tempo, quindi un attimo, sono visto un minuto, devo condividere quando mi ricapita, se non tampota. Cosa che sa, autoscatto? Selfie! Posso mettere online, vero? Certo, cioè, dove lo pubblica? Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, foto, profilo WhatsApp. Ah, e su Facebook ho sia il profilo privato che la pagina like. Per chi vuole seguirmi, sa, voglio entrare nel mondo dello spettacolo, lo faccio per quello. Ma come mai hai scelto giurisprudenza? Non è proprio la scelta più di... Senta, ma lei è così giovane. Guardi che lo so, perché io lo seguo sempre in televisione, Grazie. Ha detto che c'ho solo 33 anni. Possiamo darci del tu, perché sennò mi sento un po' imbarazzata. Con piacere, però direi di iniziare subito con questa piccola. Non ho molto tempo, giornata anche vitta di impegni. Un attimo solo per me. Di pubblicare, che così poi contiamo insieme i mi piace. Va bene, ok. E fai con cuore. Guarda dove esce questa. Lo sapevo che mi dovevo mettere solo in mia pascolata. Sensione la sapienza. Ti dovrà. Non vedi che mi guarda il pacco. Questa forse dovrà andare alla fine. Oddio, non mi guardo più. Che ci scrivo adesso? Ho trattato sul Kamasutra. Sembra un mese al piccolo, se sta ancora qui. Ma se non è niente, non serve la cosa. Tutto ok? Eh? Dico tutto a posto? Certo, stavo pensando alla Costituzione. Bravo, così entriamo subito in media stressa. Che c'entriamo? Voglio entriamo subito. Dobbiamo scrivere un articolo su un tema costituzionale insieme. Ho capito, non lo so, ma c'hai già un'idea, un tema? Ma veramente non saprei. Pensavo fosse più giusto partire dalla tua idea, no? Okay, a proposito, mo' mi dimenticavo. Poi la foto ce la mettete, vero? Che foto? La mia. Ma dove? Sei scemo? Accanto all'articolo? No, non mi sembra importante la foto accanto all'articolo. Ma cosa è importante, zio? No, perché voglio dire, senza foto che senso c'ha? Infatti io per non sapere né leggere né scrivere due o tre foto dell'ultimo book me le so portate, perché secondo me so comunque migliori rispetto a quelle fatte all'ultimo minuto, eh? Allora, abbiamo tre opzioni. Abito da sera, che fa molto bump, ma valorizza pure la mia sobrietà. Costume da bagno, che mette in risalto le forme, ma naturalmente pure il sorriso. Anche se c'ho un filo di mancetta, mica mi racconto. Oddio, che grezza, non saprei. E infine, look acqua e savone, ragazza della porta accanto. Qui mi hanno detto che c'ho qualcosa da Bellucci. Te non trovi? Esce? No. Come no? No, per Bellucci non è uguale, no, guarda me. Uno stile. Scusa, no. Vabbè, sì, no? Ma qualcosa, ma no? Ma qualcosina. No, uguale. Sì, sì, sì. Lo sapevo, infatti, che c'ho ragione io. Altro da quello che dice qua sfigata di Luciano. Perché Luciana che dice? Che non gli esumio per niente, le paranoie me le ho fatto venire. Ma è una tua amica? No, migliore amica. Cioè, sti invidiosa, non se la pila nessuno e se la pila pure con me, capite il meccanismo? Vabbè, senti, se vuoi sentire la mia sull'articolo, io farei un bel escursus su quello che è stato. Comunque, secondo me questa cosa oggi, la funzione anche lei. Ma benissimo, è fantastica! Non lo so, l'hai dato diritto costituzionale? Certo, oh. Ho preso pure 26. Professor Castori, assistente che mi ha interrogata. Marcello. Bene, c'è un argomento di cui ti ricordi, di cui si può parlare, scrivere? Ma no, veramente, per me uno vale l'altro. Ok, allora va bene. Allora. Sono una tanto mi piace. Mi hai staccato? Ma come sta l'amore di mamma? Tutto bene? Bene, mamma. Sei arrivata? Arrivata. Hai fatto il provino? Fatto. L'hanno presa? L'hanno presa. Oh, maronna, l'hanno picchiata. Io sapevo, perché sempre l'amore di mamma devono prendere, perché l'amore di mamma è il numero uno. Perché l'amore di mamma è la nuova Michelle Unzichei. Senti, bella mamma, che spettacolo è Maria De Filippi, uomini e donne? Ma te che, ma? Te più. È più di uomini e donne, non c'è sta niente. Uè, non mi toccate, Filippi. Non mi toccate, Filippi, che succede la disturbata. Senti, ma allora un po' con chi sta il loco, eh? Ma sto con un pezzo grosso, si chiama Cesare Castro. Ma chi sfacci in me? Ah, un giornalista famoso che va pure in televisione. È un professore. È un professore. Capito? Passamo, professore. No, passami, passami il professore, perché io, dopo la madre, ti devo inserire nel mondo dello show. Se tu mi passi, io so quello che devo dire, perché la mia esperienza non la può paragonare. Se ancora andando nell'elato, ti ammarà come si fa. Inci pensi, perché io so cosa devo dire al professore. Se tu mi passi, professore. Tua madre è pronto. Salve professore, come va? Bene, grazie. Professore, un piacere. Allora, se venite a cena a casa, vi faccio trovare una parmigiana bolognana che faccio scenare in suo quartiere quando si sente quell'odore per dentro ai vicoli di Roma, mamma mia. Allora, quando volete venire? Domenica? Lunedì? No, martedì no, mi dispiace. C'ho l'estetista che mi è uscito una cipolla. No, sì, mi sento qua. Va bene, sì. Va bene, poi tramite sua figlia ci organizzeremo e si vedrà se si può fare. Ma noi ci siamo stati insieme. Ma che stiamo... Io non lo sapevo che era fidanzata. No, mamma si è lasciata, soffre, soffre quella povera anima di mamma, soffre per amore, sempre chiusa dentro quella casa a piangere, no, a chi lo chiarica, non sa che c'è scritto. Fate una cosa, uscite insieme. No, uscite insieme, fatemela uscire un po' quella povera anima di te, la bella voglia mia figlia, che te li svariceremo a mia figlia, no, usciremo mia figlia. Quella è timida, io lo so, è timida, è una ragazza timida, e lo so, è sempre stato il suo problema. Va bene, sì, signore, d'accordo, sì, sì, sì. Ma voi dovete insistere, premete, premete. Schiacciate. Va bene, sì, e le rifà tua madre. Grazie. Ma? Ui, bene, mamma. Oh. Tutto a posto, ha già parato. Mamma, ci ha pensato, hai visto, ha già parato il quattro con me numero uno. Tu mi sei fa parlare a me, io lo sapevo. Tutto bello, allora, bella mamma, mi raccomando, torna ma. Presto. Mi bacio, tu ciao, sei un papà. Ciao. Tua madre, napoletana. Perché siete qui a Roma? Per scelta, per necessità. Ah, è da quanto tempo? Perché capirai, avevo 4 anni. Ma necessità dei tuoi? Mia. Ma che necessità c'avevi tu a 4 anni? Il successo. Prego. Lo spettacolo. Io volevo fare attrice, a ballerina, presentatrice, a cantante, insomma, qualsiasi cosa mi portasse in televisione. Fin da piccola, sa? I miei hanno capito che a Napoli non era cosa, hanno chiesto il trasferimento e sono cresciuta qua. Io sono stata programmata per il successo. Ti piaccio. Che senso? Fisicamente, dico, come tipo, insomma. Ti piaccio. Bellissima ragazza, però diciamo diciamo che preferisco altro. Sei brocio, lo sapevo. No, no, c'ho una ragazza per quello. E un bel buona? Beh, che domanda è? È buona, è bella, sì. Quindi. Per me sì, ma non è quello che conta adesso. Vabbè, arriva di intellettuale, arrivato. Vuoi davvero dire che non ti piaccio? Bellissima ragazza, però... Fifone! Tu hai paura di non sapermi far divertire abbastanza, Cesare, di la verità? Peccato, sai, perché io sono come una poltrona sofà. Cioè? Ma bello che sei la tana! Mamma, di che faccio? Sciogliti un pochetto! C'è qualcosa che sta vibrando. Ah, vibra. È rimasto il telefono. Che vuoi approfittare? Sta no, vibrando. È rimasto qualcosa. Il cioè il telefono. È rimasto. Ma... C'è il telefono. Ho capito. Oh. Onorevole Lorenzetti, buongiorno. Castro. Oh. Castro di nuovo, buon pomeriggio. Castro, fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Su questo siamo tutti d'accordo, dico. Ma io a volte mi fiderei. Non capisco. Castro, che non tutti gli psicopatici sono così psicopatici. E qualcuno, a forza di fare ricerche, qualcosa, ci azzecca sempre. Continua a non seguirla. Castro, non faccia affitto tutto, eh. Sappiamo benissimo che c'è stato oggi nel suo ufficio. Conosciamo tutto di lui. Le sue supposizioni, le prove che raccoglie. Ci fa un po' troppo superficiali, lasciamo fare, sì, ma sappiamo. Si riferisce al fratello della casa. Esattamente. E ai nostri la cosa interessa molto. Certo, noi non possiamo esporci i propri motivi. Un verbo preventivo sul libero cittadino, un avviso di garanzia a un membro di una famiglia così esposta sarebbe troppo pericoloso. I media sono pericolosi, Castro, troppo baccato. Sì, sì, ne so qualcosa. Però lei potrebbe essere perfetto. Come dire, il trait d'union. L'uomo della Jolt Venture ideale. Si affianchi a quell'uomo, Castro. Scopra che cos'ha in mano, perché la storia del nipote del presidente non è poi così romanzata. Quindi io dovrei... Deve, Castro, deve! I congiuntivi lasciamoli a parte. Condizionali. Si affianchi, si affianchi a quell'uomo. Scopra che cosa hai in mano. Mi aspetto grandi cose da lei, Castro. E molto presto. Ora la saluto. Arrivederci. Ma senti un po'. Ho capito male, hai detto onorevole Chiesto Lorenzetti? È un politico, è un sottosegretario. Ma che è davvero? E quanti ne conosci? Per tanti, tanti, quelli famosi quasi tutti. Eh beh, perfetto, mo presenti sto Lorenzetti. Presento. Che tipo è? Normale. Normale in che senso? Ma normale, normale. Ah, definisci normale? Che persona è? Che carattere c'ha? Una forza, testa, due braccia, due gambe, una persona non... come tutti gli altri. Ah, perfetto, allora dammi il numero suo. Ma no, vabbè, ma che si do il numero? Ma che vuoi? Ma secondo te la prima persona che mi chiede il numero di sottosegretario, ma tu che te ne devi fare il numero? Lascia stare, ho detto di no. Io ottengo sempre quello che voglio. Sicura? Parlo per esperienza. E ne so che stavolta ti dice male. Aspetta che canta Vittoria intellettuale. Con sto occhialetto da intellettuale, sto faccetto per bene sotto occhialetto da intellettuale, ma dimmi la verità che a me mai puoi dire, sei costruito bene bene per far successo, beh? Hai finito? Per il momento va bene così. Bene, direi di scrivere qualcosa sul principio di uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione Repubblicana e sui suoi successivi sviluppi dal 48 all'ora. Ma piace il principio di uguaglianza? Stava qualcosa del genere in uno scritto di diritto d'Unione Europea, vi? Bene, hai fatto lo scritto, perfetto, scrivi quello, ci aggiungo del mio, gioco è fatto, dai che ce l'abbiamo, sotto. E capirai, chi si ricorda? Hai fatto questo esame, sì o no? Ha fatto Luciana per me. Che senso? Il computer ha scritto. Io non sapevo niente, ma ci sono andata lo stesso. E al momento giusto ho scambiato la mia targhetta identificativa col computer di Luciana, e ciò che ho fatto! E quindi che? Io ho pentato e l'hai bocciata. No, vabbè, la cosa non è orribile questa. Non è orribile, orribile, ma pare orribile. Tanto poi lei il mese dopo ci è tornata, ha studiato di più, ci ha preso 30. A pratica mi devi ringraziare. Io non ho parole. Ma perché? Come hai capito? Te, qua. Dove sei arrivato? Come ci sei arrivato onestamente? No, io ci ho arrivato con la meritocrazia, che non sai neanche cos'è, il tuo vocabolario non esiste, ci sono studiando. E per giorno arriverà qualcuno che ha raccomandazione giusta che ti farà fare. Ma questo forse nel tuo mondo, non nel mio, ok? No, Ciccio, no, tutto il mondo è paese. Guarda, mamma. Ho fatto 10 anni di danza classica. All'unico provino dove hanno preso è perché sono uscita col produttore e ho fatto la gatta morta. E così, Cesare, il sistema, stacce, tocca di guasse. E poi mica si può essere tutti bravi come te, no? Senti, tu inizi veramente a stancarmi. Io ho fama di essere persona razionale, lucida, tranquilla, pacata, ma tu stai veramente esacerbando il mio senso di tolleranza nell'essere umano, della... Ciao, senti, no! Un'altra telefonata, dai! Basta, ma che te ne... Basta, no, no, non la metto più dentro, non la devo andare! Pronto, già? Oh! Ma certo mi ricordo questa sera, stai a scherzare? Vabbè... Senti, già una cosa, ma di che si tratta esattamente per prepararmi? Ah, no, vabbè. No, vabbè, posso, sì. Vabbè. Senti, allora, il 21 sotto casa sua. Perfetto, ok. Già è una cosa sola, ma mi pagate subito, beh? Ah, no, sai perché? Perché ultimamente pure che le discoteche ti pagano quando gli pare. Infatti, vabbè. Salutalo, ciao. Buono. Senti, cosa... Noemi. E io non un po'. Ti è arrivato un sms. Continuiamo domani. Ma come domani? Sì, devo. C'è ma no, una domani cosa non importante. Se l'ho fatto, ma te prego. Facciamo così: mi lasci il tuo numero, ti chiamo stasera, ti dico a che ora ci vediamo. Grazie, uscito da quella parte. È stato un piacere divertentissimo. Vai. Faceva tanto il timido, faceva. E anche tu qua che non mi chiede il numero. Che vuoi farmi? Vuoi chiamare stasera quando sei solo soletto? No, niente di tutto. No, io t'ho capito, no, che intellettuale sotto, a che punto? Ho capito, però non... Non è carino, che fai, no? Disturbo? Non sapevo. No, per niente, me ne stavo andando via io. Oh, la fidanzata del signor Cesare. Fino a qualche minuto fa, sì. Signora mia, ma tanti complimenti, è così una brava persona, tanto una brava persona. Allora io vado, Sì. Sarà retorico, ma nulla è come sembra, bravissima. Ah, no. Ma come esco un attimo e trovo a baciarti con la Jessica Rabbit di Tor Pignattara, ma Cesare! Ma senti, vabbè, ok, di questo litighiamo dopo, adesso spiegami una cosa, ma hai detto a qualcuno di quella storia che ti ho detto al telefono? No, certo che no. Perfetto, ci abbiamo il telefono sotto controllo. Ma che cosa dici? O delle cimici da qualche parte, sì. Senti, siamo in streaming? No, la diretta è di là, è alla riunione con la Guerrini. Il fratello se n'è andato ed è rimasta da sola col cantante. Perfetto, quindi abbiamo un minuto? Ma certo, quello si è messo a cantare la versione pop del Va Pensiero. Sono venuta qua per la promettazzina. Ok, senti, Eloisa, io credo che sia tutto vero. Fascicolo della propria sì, è tutto vero. Il nipote, fascicolo, il presidente mi ha telefonato Lorenzetti prima, mi sa che è vero. La bomba del decennio, lo scoop giornalistico del secolo, possiamo farlo noi? Sì, no, non lo so. Però allora adesso senti, mi ha scritto un sms, Vittorio, il fratello della Guerrini, quello che mi ha scritto. Stasera è la sera del colpaccio, alle 21 a Piazza Cavour, tu e un'altra persona mi servite. Questo messaggio non si autodistruggerà, quindi cancellalo. Firmato Furetto della Nomentana. Perfetto. Ok. Ma che è sto Furetto della Nomentana? Non lo so, mi sa che tutta sta storia del complotto gli sta dando un po' alla testa. E sarà un nome in codice, che ne so. Comunque tu stasera vieni con me, con lui a Piazza Cavour. Io no, ma che tu sei pazzo. Ma non posso andarci da solo, non senti che scrive, su. Oddio, Cesare, questa cosa mi eccita. Il vero giornalismo d'assalto, i segreti dello Stato, la volta per fare qualcosa di finalmente grosso! E possiamo farlo noi! Doppia dose! No, doppia dose no, non partire qua, che lo vi senti, ti prego. Doppia dose! Adesso. La tua Bonnie è pronta, a Clyde! Signora parte il meglio dell'esibizione del Giordano, le rime saluta che si ha nelle torri. Venga, signora, sì. Atterrate. Ah, pensiero, sono libera. Cesare! Stai andando a pisciare nel lavandino, vero? E che a me questa storia mi mette un'angoscia. Prendi la prometazina. No, gli psicofarmaci non li... no. 4 pasticche e passa tutto. Fidati. E t'ho mangiata. T'ho mangiata. E non ne sono ancora pago. E l'ho voluto e non ne sono ancora sazio. Oh, Ermione. Bravo Rello, bravo, molto bella, ma perché Ermione? Vabbè, volevo fare un omaggio ad Annunzio. Amico mio! Sei proprio forte, cazzo! A parte su Ermione, come chiedere che tu Harry Potter? No, però c'è tutto! La tua poesia è proprio... è bella, è frizzante, Non lo saggio com'è. Solo che mi fanno un certo effetto ogni volta che sento sta poesia. Ah, sei proprio bastardo ogni volta che... Ah, hai ragione, c'è freschezza, c'è emozione nei tuoi versi. Però, D'Annunzio, lascialo stare, non citarlo, sii te stesso. È che un po' mi vergogno. Sbagli. Poeta non deve avere paura. Mai. Ma tu pensi che con il tuo aiuto riuscirò mai a pubblicare la mia prima raccolta? Ma certo, tu continua così. Appena sarai pronto contattiamo qualcuno. Eh? Grande. Vittorio, grande! Questo è uno dei miei sogni. Ok, basta, ora tocca a me. Giusto, il momento della saggistica. Ho risistemato tutta la parte centrale, riparto da là. E quindi, signori, è l'ora di rendere pubblica la scoperta che cambia tutto l'impianto del nostro sistema linguistico e letterario, che muta gli equilibri fra nord e sud del paese in barba alla crisi economica, sociale e politica. Io, Enzo Rapisarda, proverò documenti storici alla mano che la lingua italiana non è nata a Firenze come la storia ha voluto erroneamente tramandare. La lingua italiana ha visto la sua origine in Sicilia. Grazie al ritrovamento di alcuni preziosi manoscritti datati 1172, effettuato da me e dall'esimio collega e ineffabile poeta, aggiungerei, Antonello, detto Nello Carpito, possiamo dire che tale scoperta della lingua italiana ha avuto ancora una volta... Senti, Vittorio, scusa, io mi sento uno stronzo, però. Cioè, ho capito che non ti piace la fama, ma ce ne dati giusti i manoscritti, fatti citare almeno, no? No. Li ho dati a voi perché mi siete simpatici, va bene? Io le mie pubblicazioni le ho già fatte, va bene così. Ah sì, un numero uno, Enzo! Number one, proprio. Possiamo oggi dimostrare che il vero padre della lingua non è, come tutti credono, il fiorentino Dante Alighieri, ma il cigno dell'isola di Trinacria, lo straordinario, inafferrabile Angioletto da Scordia. Esponente di spicco della prima scuola siciliana, proveniente dal piccolo paesino di Scordia, provincia di Catania, il cui nome significa aglio, operò alla corte normanna di Guglielmo II, ed è qui che codificò per primo il passaggio dal volgare alla lingua italiana nella sua grammatica italica, e compose la raccolta di poesie amorose dedicate a Madonna Rosaria di lingua glossa. Primo utilizzo del sonetto e poi della lingua. Diciamo che poi si sarebbe appropriato l'Alighieri di questa, a questo punto protagonista del più grande plagio della storia. Tutta. E poi qua in pratica si inserisce Nello che ha fatto tutta l'analisi dei testi dell'Angioletto. Sono venuto un capolavoro. La poetica dell'Angioletto da Scordia richiama sì i temi tipici dell'amor cortese, ma ciò che di incredibile e inusitato si riscontra nella sua produzione è il tasso altamente erotico dei sonetti, esplicitato con doppi sensi, metafore suggestive, alternate a crude descrizioni di atti sessuali. Così è chiara la differenza sostanziale tra l'Angioletto e l'Alighieri, o meglio ancora, fra la Rosaria angiolesca e la Beatrice dantesca. Da un lato, due focosi amanti spregiudicati, adusi allo scambio di coppia e alla fornicazione selvaggia, anche all'aperto, E dall'altro, due specie di nerd rinascimentali, vittime della morale cattolica imperante, repressi nelle loro fantasie e inevitabilmente condannati all'orgasmo manuale e solitario. Spesso la struttura dei sonetti lascivi dell'Angioletto consiste in una botta e risposta fra uomo e donna. E adesso con il mio collega vi andiamo a rappresentare. Questo cazzo voglio io, non un tesoro. Questo è colui che mi può far felice. Questo è proprio un cazzo da imperatrice. Questa gemma vuol più che un pozzo d'oro. Oime mio cazzo, aiutami, che io moro. E trova bella foglia e matrice. Infine un cazzo picciol si disdice se in potto osservar vuol un decoro. Padrona mia, voi dite bene il vero, che chi ha piccoli il cazzo in potta fotte meritera d'acqua fredda un cristero. Ma chi l'ha come ch'io, spietato e fiero, sbizzarrischisi sempre con le potte. Jevè, ma noi siamo giotte del cazzo tanto e tanto ci par lieto che terrem la guglia tutta drieto. In pratica abbiamo fatto poi l'analisi dei testi dell'Angioletto e il saggio, tutto quanto sono venuti benissimo. Grandi, grandi, un bel lavoro, eccellente. Vado a pisciare. Come va con quel mal di pancia, Nello? Così, così. Ah, ti ho portato delle pillole, il mio medico dice che siano miracolose. Prendine 4 prima di andare a dormire stanotte. Grande, che bomba! Ma non è che sono come quegli integratori che mi hai dato l'ultima volta. Sono 2 settimane che ho questi mal di pancia e sono 2 settimane che sto prendendo gli integratori. Ti fidi di me? Hai ragione. Grande. Grandissimo. Ne mancano ancora 5-6. Testuale audiolibro da registrare. Un capolavoro, Vittorio. Aspetta. aspetta, che poi la grande pubblicazione che cambierà la storia tutta, Vittorio, tutta, tutta. Ma come mai sei qui a Roma, Enzo? Cioè, dico, perché ti sei trasferito con l'università? No, praticamente i miei genitori mi volevano fare stare un po' da solo a Roma. Dici, vai, vedi come si sta, no, poi ritorni. Che lavoro fanno i tuoi? Gestiscono franchising di attività di alcuni paesi della Sicilia. E Nello da quanto lo conosci? 8 mesi. Ah, pensavo di più. Siamo molto amici. Con Nello? Che a me come due fratelli siamo, dici Nello? Qua io di fratelli non ne ho, quindi sono contento che ci siano Enzo e Jessica. Eh sì, in effetti da quando è morta tua madre non è quasi nessuno. No, veramente nessuno. Ma quando te l'ho detto di mia madre? Il mese scorso, credo. Che strano, non mi sembrava di avertene parlato. Beh, ragazzi, io devo scappare, devo sbrigare ancora delle cose. Ah, sì, proprio per quegli appunti. Non mi sono dimenticato. Domani, uscendo dall'università, vengo a portarteli, va bene? Domani non ci sono. Ah. Ah, e allora facciamo così. Ce l'hai un mazzo di chiavi di casa in più, per caso? Io domani posso passare qui, ti lascio gli appunti e le chiavi all'ingresso. Davvero potresti farlo? Per gli amici questo ed altro. Grande. Tieni, prendi le mie, tanto io ne ho un altro paio. Beh, direi che è tutto perfetto, no? Ah, ricordati le pillole. Anzi, sai che c'è? Ti chiamo io così te lo ricordo. Vittorio! Sei un amico. Guarda, ti accompagno. Allora, mi raccomando, Anthony, senza paura, Anthony, mi raccomando, senza paura, Anthony, senza paura. Tranquilla, il brano è pronto, io sono informissima. Mi raccomando, fammi sapere, io la diretta non la voglio seguire, troppe emozioni, tanto c'è il call center che ti fa vedere. È pronto, ti vai agli amici miti, guarda, ha girato il numero di codice a tutto quanto. Gigino Muzzarolato, Pascalo Scartamato, Giovanni Ricciolato. Vincerò per tutti voi. Lina Masardò. Pure per lei. Quanto è bello, mamma mia. Un sole. Sonetto numero 18, raccolta dell'angioletto da Scordia. Questo libro d'altro che sonetti, di capitolo ed egloco canzone, qui il San Nazzaro il bembo non compone. Né liquidi cristalli né fioretti, qui il Bernia non ha madrigaletti, ma vi son cazzi senza discrezione e ci la potta il cul che gli ripone, come fanno le scatole a confetti. Che merda. Ah, si volesse l'inserire a mia figlia come ballerina. Fosse una mana santa. Signora, ma i ballerini vanno in coppia con i figli. Osage! Ma che la mia figlia della fortuna e trova lo starce lì poi dalla cumane, papà! No! Noi ci mettiamo in preghiera e vedrai che servirà anche per lei. Ecco, bravissime, io vado appena ho notizie e chiamo, eh! Anthony, in bocca al lupo. Oh, ma che solo non si dice così! Si dice merda, merda, merda! Ora, merda, merda, merda! Ma faccelo, cazzo! Enzo! Ho visto Noemi. Cazzo che buona. È buona, ma è un po' volgare, Nello. Ma a me piace. Che linee. Che protuberanze. Che rotondità. Che maiala. Ce l'ho in testa tutto il giorno, non riesco a togliermela. Oh, questo lavoro sull'angioletto lo voglio dedicare a lei. Ma non so se gliene importa molto. Passo su quanto bilancio, che ci sono su quanto, cos'è che c'è l'inferno? Persia di resurrezza, c'è di rifonza per la mia vita, sono del pezzo di io di carventura sabato. Di spirito santo, un santo, mentre sei cattolica, cattolico, un anno, un sapere, la verità, la verità, la verità, amen. Signora Maria Sole, ma voi mi intendete di macellazione? Discretamente. Avete regalato un capetto a mio marito, i colleghi di lavoro. Ma come l'avete ascoltato? Ora vi spiego. Mi immagino. Lei come la Madonna Rosaria di lingua grossa. Ed io come l'angioletto da Scordia, intorcinati sotto il sole d'estate in un'estasi di versi e sesso sfrenato. Un sogno, un sogno. E poi il suo corpo. Toccarla, baciarla, possederla, sculacciarla, declamando i versi del cigno di Trinacria. E chissà se prima o poi non succeda, né lui. Fidelezzo. Sì, vabbè, ma mai visto? Sei sbagliato, sei. Mai smettere di sognare. Se no la poesia, a che serve? Perché m'hai baciato adesso? Così, per provare. A te è piaciuto? Non tanto. Forse preferisco Noemi. Forse è meglio. Vabbè, dai, continuiamo, ma poi ci pensiamo. E prima cosa bisogna sgozzarlo. E che ci vuole? Un coltellaccio come questo è perfetto. E come si fa? Individuata la giugulare, procedere con un taglio netto e sicuro da sinistra verso destra, mano ferma, mano ferma, senza esitazione, grande forza nel braccio. C'è molto sangue. Abbastanza, ma vendono delle ceratine apposite al discount. Vader, che c'è di sbello. Fottiamoci, anima mia, fottiamoci presto, perché tutti per fotter nati siamo. E se tu il cazzo adori, io la fotta amo, e saria il mondo un cazzo senza questo. E tanto che è morto, come la ci ascolta? Anzitutto una mannaia ben affilata. E che è una mannaia? Importante è che me la riporta pulita. Poi va legato per una zampa, quella posteriore, così lo lavora meglio. Certo. Poi sempre con la mannaia, un colpo secco e lo divide in due parti esatte. Benissimo, che sto facendo a mio marito? Sempre meglio avere un uomo a fianco in questi casi. Gettati pure il letto e nello spazio sopra di me, che se Marforio fosse un gigante io n'averò sollazzo, purché mi tocchi le midolle e l'osse con questo tuo divinissimo cazzo che guarisce le porte dalla tosse. A questo punto sezionare le gambe e tagliarle in piccoli pezzi. Sempre con la mandata. Quello è indifferente, la prossima operazione è tagliare il torace. Colpo secco e sicuro. Mai, errore comunissimo, movimento ondulatorio, interno-esterno, altrimenti la pelle rimane attaccata. Lavoro di fino, consiglio un coltello di media misura, come quello per tagliare le anguille, come questo. Me lo disinfetti. A chi sto montaggio, Fernotto? A questo punto rimane soltanto il quarto posteriore, ma quello se è tenero di noce, ci vuole un altro. Diversamente? Ci vuole il flex, ma quello non ce l'ho, perché il mio era tenero di noce. Virgo prudere. Dove il mettrete voi? Dite di grazia, dietro o dinanzi? Vi voglio sapere, perché farovi forse dispiacere se nel pool me lo caccio per disgrazia. Madonna no, perché la botta sazia il cazzo, sì che va poco piacere, ma quel che faccio il po' per non parere un frate mariano. Verbi grazia. Meno male che mi avete aiutato voi, signora Guerrini. Si fa quel che si può. È che io il capretto non l'avevo mai squartato. Nemmeno io. Regina Celi! Il mio lancetto ben mio spinge dal canto più su più giù e va senza sputare, o cazzo buon compagno o cazzo santo. Togliete il tutto quanto, io lo tolto entro più che volentieri, ma ci vorrei stare un anno a sedere. Minchia Valide! Ho perso tempo perché sono passata dalla biblioteca. Ti mando le saluti, Enzo dice che ti vedono spesso. Vabbè, spesso, ogni tanto, no? Spesso. Conosciamo con mia, Enzo. È il mio anellino. Come sta? Bene, sono contento di vederti, Jessica. Che fai, Jessica? Ma vedi che bel profumo, è nuovo. Sì, l'ho comprato ieri. Sta diventando un nome. Vuoi fare girare la testa a qualcuno, Nellino? Sono gelosa. No, ma che dici? Io no. Jessica, bravo. Bravo, Nello. Bravo, Nello. Anzi, Monello! Vado a pisciare. Ma che compa di nuovo? Ma ci sei andato 5 minuti fa! Sì. Proprio, sì, proprio una cosa vergognosa, sì. Ma che finisce la cazzo, non fosse per mia non avessimo fatto ancora niente. Devo chiamare Noemi. Noemi, Jessica sono. Te lo ricordi questa sera, vero? E niente, una cosa facile facile. Devi imparare quattro battute a memoria come una recita. Poi al resto ci pensiamo a noi. Sì, alle 7 ci vediamo per organizzarci, poi alle 9 sotto casa di lui. Scetto che ti paghiamo bene. Gente seria, con questa parà. Gente seria siamo noi. Con noi non sbagli. Ti saluta Enzo, puntuale Beta, ciao. E allora, per stasera? Enzo, certo, vuoi più con me? No, no, siamo sicuri, quindi... Enzo, ricominciamo, no? No, no, va bene per stasera, va bene per stasera. Ci ha parlato con lui? Sì, sa che dormiamo qua stanotte. Ma tu sei sicuro che serve tutto questo bordello per trovare questo fascicolo, no? Jessica, se c'era un altro modo te lo diceva. Tranquillo, ora chiedo tutto così, si canta. Ancora, mi sta piacendo. Nello! Nello! Tranquillo, Nello, vieni con Carmen, se io usciamo la rete, dobbiamo sbrigare una cosa, ci vediamo fuori, va bene? Amore, a posto. Enzo, dai! Vittorio, non ti avevo sentito. Scusa, mi stavo mandando un messaggio. Stasera Anthony non c'è, tu che vuoi per cena? Niente, mangio fuori anch'io, non ci sono a casa. Allora rimango da sola con la signora Iole. No! Io! Mia figlia! L'ho sentita, l'ho chiamata prima! Dice che sta anche con questo importante assai, dice che sto parlando con un professore importante. Forse torna prima! Allora voglio sentire che mi racconta. Anzi, facciamo una cosa! Finiamo con Sam e io me lo mando! Agnus Dei, qui togli speccata mondi, parce nobis domine. Agnus Dei, qui togli speccata mondi, exaudi nos domine. Agnus Dei, qui togli speccata mondi, miserere nobis. Che piacere dietro tutto tuo sia, ma dinanzi il piacere tuo e mio, sicché fotti a buon modo o vanne via. Un genio. Le viole. Avevo fatto 4 o 6. Non mi ricordo. Vabbè. Per sicurezza non prendo 6. Sono davvero stanco, voglio mettersi a letto. Ma chi siete voi? Non mi riconoscete, angioletto? Ma siete voi? In carne e ossa. Ma proprio voi? E chi se no? Madonna Rosaria di lingua grossa! Quanto gli piace! Eh? È certo che sono io! Che ci fate qui, oh Madonna? Oh, venni da lungi per carnalmente congiungermi a voi, oh mio angioletto! Può essere un sogno? No, no, no, è un sogno! Non può essere! E invece è! O forse... Siete tanto codardo da non voler soddisfare la di voi mia brama? No, no, io ne sarei onorato. Bene, adunque non si induci. I nostri corpi esulteranno avvenghiati fino al sorgere del sole in un tripudio peccaminoso di mani. Mani. Bocche. Lingue, organi all'uovo predisposti ai vini goderecci anche meno, godendo le gioie sacre dell'amor carnale che pari agli dèi ci fa e basta. Il resto lo adombrato. Siete pronto, cavaliere? Non chiedo di meglio. Bene. Ma prima che i nostri corpi divengano tutt'uno nel lume d'afflato, prima che le secrezioni corporali bagnino i lumi della ragione, voi dovrete lavarvi dal peccato della menzogna, ogna. Quale menzogna, ogna, oh Madonna? E conoscete bene le regole dell'amor cortese, cavaliere. La dama sarà unita al suo uomo solo quando tra di loro cadranno i segreti tutti. Ma quali segreti? Io non ho segreti. Degoccio, non siete menzognero con me, messere. Pria, ho detto, e soltanto pria che la lascivia ci stordisca, voi dovrete dirmi tutto di voi. Se e dove nascondete qualche cosa. Sì, ma non c'è niente da sapere su di me. Ho capito, siete cavaliere tutto d'un pezzo. E allora vai io a sciogliere la corazza. E come? Ma che no. anticipazione di ciò che sarà vostro, se solo però aprirete il cuore alla vostra Madonna Rosaria. Sì, scioglietemi, scioglietemi tutto! Allora mirate la vera arte del Medioevo! E per il codice prevoto 013 è hanno fatto effetto, uno stato di morte apparente. Non si sveglierà per un pezzo e non sentirà nulla. Bene, allora accendiamo una luce un attimo. Sì. Eccola. Ah. E quindi direi che cerchiamo sto fascicolo e ce ne andiamo. Sì, facciamo in fretta. Oh, Vittorio. E saria pure una coglioneria, essendo in voglia mia fottervi adesso, avervi col cazzo nella botta messo del Bruno, mi facendo carestia. Ma che è sta roba? Ma niente, lascia stare, storia lunga. Eloisa? Oh, no, scherzavamo, No, posso spiegare? Noè! Cesare! Vittorio! Enzo! Vittorio! Cesare! Noemi! Ma che spagnolo avete tutte male? Ma che ci sono? Eloisa! percentuale del voto è... Grazie! Grazie! Grazie! Grazie! Quindi, com'è che funziona la leschida garitto tu? È un termine di derivazione greca, significa mancanza di parole per le emozioni. Il soggetto lessitimico non nega o inibisce le emozioni, non riesce a esprimerle. Infatti è considerata una delle possibili cause di alcuni problemi psicosomatici correlati con problemi di regolazione affettiva. Ah. Un'emozione non regolata, non elaborata, si esprime in un agito. Sì, ma... in pratica, che succede? Il soggetto alessitimico esprime le proprie tensioni negative attraverso comportamenti compulsivi, quali l'abbuffarsi di cibo, l'abuso di sostanze, il comportamento sessuale perverso. Ed è caratterizzato anche da un'ossessiva ricerca di cure e attenzioni. Vabbè, va, vi racconto l'ultima. Ma raccontata a mio padre mi ha fatto tagliare, giuro. Senti, allora, c'è sta il carabiniere che nel giorno di riposo va da un psicologo, va. E gli fa: dottore, dottore, io ho un problema grandissimo. Sono bruttissimo. Non ce l'ho mai avuto una donna. E il dottore gli fa: senta, ma lei c'ha soltanto bisogno di autostima. E lui risponde, il carabiniere: adatto, io c'ho una via a panda, va bene lo stesso. Che i medici finiscono il giro. Okay. Signora Giannini, senta, io volevo approfittare per ringraziarla di avermi prestato lo sporverino. Veramente te lo sei presa dalla macchina da sola? Ne ho capito, mica potevo andare in giro così. Signora Giannini, volevo approfittare visto che lei è una giornalista di così grande classe. Che cosa ne pensa, mi dica la verità, di questo ultimo composit di quadro che mi hanno fatto? Guardi un po'. Carino. Vabbè, a me mi piace, sai perché? Perché secondo me questo fotografo è riuscito a racchiudere perfettamente in tre foto le mie tre anime. Guardi qua, allora, l'anima un po' così sensuale, come so io pure, questa un po' eclettica, questa pure spiritosa, come so io. Però secondo me ne manca una. Lo sapevo, quale? L'anima del mortale. Eloisa, contegno, dai. Dottore, dottore, come sta? Meglio, meglio, meglio, è assolutamente fuori pericolo. Sì, sì. Ma di che cosa sei trattato? Assunzione sovradosata di mega sonniferi. Roba da far addormentare una mandria di buoi in calore. Ma lui non è apparente, bisogna partire da qualcuno. Ci abbiamo già pensato noi, state tranquilli. Il ragazzo è in mani sicure, sicurissime. Ah. Dottore, noi ci conosciamo. No, non credo. Sì, ci siamo già visti da qualche parte. Beh, magari fossi lei ci ripenserei, magari mi confonde per qualcun altro. No, a me non sembra proprio. Mm-hmm. Sì, sì, lo confondi. Lo confondi, Luisa. Lo confondi con qualcun altro che gli assomiglia, però, sì. Quindi, dottore, possiamo stare tranquilli? In un certo senso. Tutti quanti. Staremo a vedere. L'importante è che il ragazzo sia salvo. Ma certo, signora Gemini. Al giorno d'oggi facciamo miracoli. E alla fine sistemiamo sempre tutto. Incredibile però, eh? Poi dicono che in Italia la sanità non funziona, eh? Un medico, proprio un medico, laureato in medicina, che passa un'ora, da solo con un paziente per parlarci. Paziente, fra l'altro, non in pericolo di vita, eh? Una cosa incredibile. E poi dicono che non funzionano le cose, c'è da essere fieri dei servizi in Italia, di tutti i servizi dello Stato. Bene, sogno contenta. Magari vado a prendere un cambio vestiti per lei. Ci penserò io, me ne occuperò personalmente. Non vorrei che la casa venga violata e che qualcuno rischi una denuncia per violazione di domicilio. Ah, signor Corelli, mi darebbe le chiavi della casa del ragazzo? Grazie, lei è gentilissimo. E buona serata a tutti. Era Lorenzetti. Era Lorenzetti, adesso se ne va a casa del ragazzo. Chissà cosa gli ha promesso in cambio per farsi dare il fascicolo della trattativa. Ci hanno sgamato, siamo qui. No, dai, dai, non ti preoccupare. Senti, andiamo in studio da te. C'è la registrazione mattutina, il 2 di giugno. Sì, devo finire pure l'articolo con la ragazza. Allora la registrazione la facciamo nel tuo di studio. Senti, invitiamo anche la Guerrini. Ha tanto insistito. Hanno preso anche il cantante del talent. La Guerrini, no, piano. Sei pazzo. Ha fatto picchi di scere, fantastica. Va bene, va bene. Va bene, qualsiasi cosa, basta che andiamo via. Io sono veramente... Signori, grazie, Grazie. Non è stato un piacere. Buona festa della Repubblica. Cesare, io vado con te, vero? Con noi. Vieni con noi, prego. Vittorio, poi, e tu che fai? Io devo andare a casa a fare un servizio. Oh, magari quando poi finisci ti faccio vedere le ultime analisi. Sì, magari un'altra volta. No, un'altra volta, ora. Però c'è una questione che devo risolvere. Ma che cosa ce ne c'è, ma Don Mimì? Guarda, dimmi lo tu, però. Aiuta, forza, rispondi. San Salvador. Vito, ti ricordi? ne posso più, lo scriviamo questo articolo. Cesare, c'è sta la diretta streaming, ma che fretta c'hai? Aspetta, no? Sono stanco, voglio solo andare a casa, basta, basta! Potevi entrare, ho detto! Devo parlare con mio sorella, con il signor Carter, potevi entrare! Siamo in diretta! Sì, ma c'è una scaletta! Tu! Schifosa! Pensavi non mi fossi accorto di niente, mi facevi così cretino, così distratto! Ma Vittorio, di che parli? Sono state loro! Loro lo hanno fatto a fettine! In centinaia di piccolissimi pezzi! Ecco la vera fine di mio cognato! Vittorio, ma che dici? Ma che sei impazzito? Ma scusate, lo telespettatore ha sempre di queste crisi. Crisi un cazzo! Cazzo, io ho le foto! Tutto documentato in 6 lunghi mesi! Tagliato! Come carne da macello! Quel povero uomo, e per quale colpa poi i vizi di una ninfomane di mezza età che dovevano essere soddisfatti dall'aspirante cantante pronto a tutto pur di farsi produrre un disco! Vittorio, smettila! Stai zitto, l'ho detto! Io lo sapevo che dovevamo fare fettine anche te! Gli inquirenti potranno trovare ogni singolo pezzo di mio cognato tagliato, sezionato, archiviato e conservato in dei barattoli di vetro in salamoia nello sgabuzzino segreto all'ultimo piano. Quello sgabuzzino! Però che siete privilegiato dei loro video da pervertirci! Ma basta, basta, io chiamo la polizia, basta, dov'è? Sta buono, sta buono. Non si azzarderà a chiamare nessuno. Fallo continuare, Cesare. Io vi ho lasciato fare, perché mentre voi facevate i vostri giochetti all'ultimo piano io potevo accedere all'archivio, fare le mie ricerche. Ricerche che ora sono andate in fumo. Tutte! Beffato, fregato anche io dai poteri forti, io il complottista illuminato! Io che volevo portare la verità. Senta, ma mica ci sta bisogno di far così! Dico io, ce n'è una soluzione per sto paramo, no? Ho capito, non collabora. Così non riprendere! Aspetta un minuto! Aspetta un minuto! Sarò io! Sarò io a ristabilire la giustizia, io a riportare l'ordine! Vittorio, no! Vittorio, dove vai? Signor Corelli, non ci faccia del male, la prego. Ti prego, non mi sparate, prego, sono tanto giovane, ti prego! Tranquilli, non è mia intenzione. Ora parlo alla nazione. Io, Vittorio Corelli, so tutto. Tutto. Del nipote nascosto del presidente. Del fascicolo sulla trattativa Stato-mafia. Di come il giornalista Cesare Castro si è coinvolto fino al collo nell'affare e di come sia da anni vittima di ricatto dalle più influenti figure della politica e della finanza. Di come la mafia volesse mettere le mani sul fascicolo stesso per evitare il coinvolgimento dei boss e dei politici che hanno partecipato alla trattativa. Io conosco esecutori materiali e mandanti di tutte le stragi degli ultimi 50 anni, da Bologna, Capaci, Via D'Amelio, Piazza Fontana, io! So che l'onorevole Lorenzetti in questo momento si trova a casa del nipote del presidente per mettere le mani sul fascicolo e segretarlo. E c'ero arrivato anch'io! Anch'io c'ero arrivato! Avevo fregato il nipote e i mafiosi con una storia inventata ad arte da me su un poeta siciliano che per prima avrebbe codificato la lingua italiana. Tutto! Tutto pur di mettere le mani sul contenuto di quel fascicolo. Contenuto che solo io conosco a menadito. Solo io. Ma di questo non vi dirò nulla. Io, come l'anarchico Pinelli, sarò l'ennesima vittima illustre dello Stato. Ma per mia scelta. E la storia si ricorderà di me come il grande Vittorio Corelli. L'uomo che sapeva tutto, ma non ha voluto condividere con nessuno. Perché la verità non ve la meritate. E non serve pure a niente. Bastardi. No, no, no! Ah! Eravamo in diretta. Altro che delitto di Santoreste. Ci vinciamo il Pulitzer con questo? Ci vinciamo la Bibbia con questo! Un TSO, la Sinala, ma non ti rendi conto? Eloisa, che siamo coinvolti fino al collo! Ma è un'occasione unica! Sì, di andare in galera, Eloisa, su! Ma tanto è la diretta streaming, non ci possiamo fare nulla! Perfetto, diretta streaming. Aspetta. Oggi è il 2 giugno. È la festa della Repubblica. Tanti auguri. Gli operatori sono in vacanza, sono al mare. Il registrato di questa mattina sarebbe andato in onda oggi pomeriggio, con 3 ore di differita. Puoi fare qualcosa? Ho le chiavi dell'ufficio. Vado, vedo se riesco a cancellare, a distruggerle. Brava, vai. Lo stupo va a farsi fuoco. Lo faccio per noi, Cesare. Per noi tre. Arriva Orta, non ce l'ho con te. Sono incinta. Non vomitavo per la prometazina. Bravi, auguri a tutti quanti, Ma io da tutta sta storia che ci ho guadagnato, fammela lì. Ma basta, ti sopporto lei, basta. Scriviamo questo articolo, andiamocene a casa. Io ne posso più, ne ho fin sopra i capelli. Che non ho! Scriviamo! Oh, scriviamo, che bravo, che ci sei finita tu, selezionata fra tutti gli studenti della facoltà, è inconcepibile! Con i miei mezzi! Prego! Vascello, professore, c'è una tresca con un'amica mia, Alessandra, si incontrano tutti mercoledì pomeriggio al seminario giuridico. A lui piacciono le cose strane. Qualche mese fa mi sono appostata fuori dalla finestra, ho scattato qualche foto e me la sono conservata, lo sapevo che prima o poi mi ritornavano utili. Così quando hai saputo che lui selezionava. Ha fatto lo scambio equo, venire qua in cambio delle foto cancellate. Fantastica, sei un genio. No, scusa, fammi capire. Mo te saresti sconvolto te. Sì, guarda, mi hai veramente stancato. Ah sì? Sì. E perché? Perché lo so io, scriviamo. Ma pensa un po', te lo dico io invece perché. Perché te mi consideri una rivista, una persona schifosa, un'infame. E beh, lo sai che ti dico, Cesare, che c'hai ragione, è proprio così. Ma almeno io lo dico. Quelle come me non c'hanno mica scelta, perché là fuori c'è sta la giungla. E chi è più forte e più furbo sopravvive. E così m'arrangio, perché io una vita di serie B nulla voglio. E tocca a parasse. E se devo camminare sul cadavere dell'altro, lo faccio prima che l'altro parla con me! Ho messo sto poraccio qua. E almeno lì in qualcosa ci credeva. Lo vuoi per soggetto particolo tu? Te lo do io tutto. Scrivite come stanno messi quei 4 stronzi fortunati come te, che ci hanno avuto sempre tutto la vita, ma lui è mai abbastato! E poi scrivete quell'altri milioni di milioni costretti a rinunciare alla propria libertà per averci posto dignitoso nel mondo. Non vedi questo. Ma che te credi che è facile, eh? È bella la vita, quando che c'è il culo pieno. È facile stare lassù e guardare quell'altri dall'alto. Ma se giudicali perché te mi giudica, stronzo. È vero no che te mi giudichi dall'alto della sua mente, la sua libertà intellettuale. Ma scendi, Cesare, e scendi a camminare sui marciapiedi, scendi a mangiare la polvere e ti accorgerai che quello che c'è sta scritto su sti stracci nei libri la vita reale non serve a niente. Ma con chi ti credi di avere a che fare? Con chi ti credi di avere a che fare? Chi sei per venire qui a sindacare della mia libertà, della mia carriera, del mio lavoro? È vero, siccome tutta la tua generazione siete degli arrivisti, vita, grande, talent show, orientati solamente al successo, mi fate schifo. Che ti credi? Un mondo di merda solo per voi, un mondo di merda anche per me. Anch'io mi sono venduto, mi vendo e continuo a vendermi. Negli ultimi 2 anni, tutti, e sottolineo tutti gli articoli che portano la mia firma sono stati dettati dalle alte sfere della politica, perché ti dicono che bisogna orientare in maniera costruttiva l'opinione pubblica. Ci fosse una volta che sono andato in televisione libero di dire quello che pensavo, no? Ho sempre seguito i diktat di quello stronzo del direttore generale della rete che ti segue passo passo, ti verifica i contenuti, le domande, le risposte, le scalette e poi politici ovunque, politici, segretario, sottosegretario, onorevole deputato, senatore, cancelliere, ministro, presidente! convenevoli, perché sai com'è, senza la protezione giusta te lo danno il programma in prima serata. Chi te lo dà uno straccio editoriale senza la protezione di un politico? Perché in Italia l'informazione non è libera. Eppure noi, pure noi che dovremmo essere bandiere del libero pensiero, gli intellettuali, le voci fuori dal coro, pure noi, pure noi prostitute, pure noi marionette, burattini, puttane d'alto borgo, dei loro vizi, contenta ora, contenta di non essere più così sola in questa giungla dell'Italia contemporanea, contenta, povera creatura indifesa, contenta, contenta. Contenta, sono contenta. Anzi, sono contentissima. C'ho lo scoop dell'anno fra le mani. La registra. E che so scema, c'è? Già vedo le prime pagine del giornale. Il famoso giornalista Cesare Castro invischiato in un torbido intrigo politico con tre cadaveri di entrato studio. Spara zero su tutto il sistema di informazione della politica italiana. Dammi quella registrazione. Ma che papà, può cancellare pure questa, mo? Eh? Allevate! A fame! A stronzo! Bastardo! Aiutami, vuoi rifare! Aiuto! Zitta! Zitta! Zitta, capito, zitta! Cancella quella registrazione, ti prego, mi rovini, perdo tutto, ci ho messo tanto per... Ma è fai schifo! Prego, ok, ok, cosa vuoi in cambio? Su, raccomandazione per l'università, cosa vuoi? Raccomandazione per il cinema, per la televisione, vuoi conoscere, conoscere un politico? Politico, sottosegretario, ministro, presidente, quello che vuoi. Quello che vuoi, sono disposto a scambiare. Ma te sei sicuro che faresti proprio tutto, tutto? Qualsiasi cosa. Bene. Quindi? Le dice qualcosa a te? La stella che brilla. Perché mi hanno sempre scartata come ballerina, andavo pure bene, ma non ho mai trovato uno straccio di VIP che mi accompagnava. Vuoi ti presenti qualcuno? No, no. Cioè, vieni te con me. Io? Ah. A un talent show. Ah, no? Ma un ricatto ignobile. Bravo, è ignobile come te. È ignobile come me. È ignobile come un po' tutti. E poi comunque io non credo che tu abbia altra scelta. Qua la mano. Bravo, così sì che mi piace. Adesso è tardi, c'è un provino e devo ripassare la coreografia. Ah, e Cesare, l'articolo scrivilo tu, che non me ne può fregare di meno di quello che ci scrivi. Tanto ormai siamo amici, vero? Guardami negli occhi. Amici per la pelle? Certo. Bravo, Ciccio, scrivi, che quello sì cosa va bene. Come on. faccio un figurone. Ecco, lo sapevo. Mi ha dato buca. Vabbè, pazienza. Ordino una pizza e guardo la televisione. Anche stasera che palle. Almeno con Enzo e Jessica avevo un po' di compagnia. Il neo ministro della cultura, l'onorevole Gisto Lorenzetti, ha fortemente voluto la pubblicazione patrocinata dalla Presidenza della Repubblica del saggio che sovverte la ricerca linguistica italiana. Infatti il testo, La nascita della lingua, è una summa delle ricerche del giovane studente Nello Carpinto, 24 anni, orfano di padre e di madre, che dichiara come la nascita della lingua sia avvenuta in Sicilia e non a Firenze, ad opera di un poeta sconosciuto, Angioletto da Scordia. Bene, ministro, che cosa ci dice in merito a questa straordinaria scoperta? Beh, che dire, siamo molto fieri di aver dato la possibilità che le ricerche di un ragazzo così promettente vedano la luce della pubblicazione, cosa che abbiamo voluto fortemente io e il presidente. Tra l'altro colgo occasione per inaugurare la mia nomina a ministro della cultura. Comunque in questo momento stiamo lavorando tutti fortemente per dare la massima visibilità a questa meravigliosa scoperta. Il Ministero della Pubblica Istruzione sta modificando tutti i programmi didattici di letteratura italiana proprio per divulgare la magnifica opera del Cigno di Trinacria, L'Angioletto da Scordia. Bene, grazie ministro, vi ricordo l'appuntamento a giovedì prossimo. Nello Scarpino sarà in esclusiva ospite del mio salotto Eloisa il pomeriggio per raccontarci tutti i dettagli della sua vita privata e lavorativa. Infatti sta scrivendo un nuovo saggio. La solitudine del poeta. Aspetti, no, ministro, no, dove scappa? No, no, no, sono in commissione. Questo nuovo saggio non mi convince. Meglio ripartire dagli appunti di oggi. Indagando e gettando luce su quelle che sono le ragioni del distacco dal mondo, così come le ragioni di natura patologica, che sfociano in un isolamento non cercato, ma subito. Solitudine come malattia, dunque, che sconfina nella depressione o che nasce dalla sofferenza fisica, ma anche solitudine come condizione nella quale si precipita a seguito della morte di una persona cara e che ci lascia inermi e impotenti. A tal proposito, di notevole efficacia nel rimandarci il dolore lacerante della perdita, sono le parole del critico letterario Roland Barthes, che nel suo diario confessa come dopo la scomparsa della madre tutto abbia perso significato e l'unica alternativa di vita rimasta sia per lui quella di calarsi nei valori di lei, risvegliarne il ricordo nell'agire quotidiano in una condotta che rispetti la sua volontà, e altresì solitudine come scelta, perché presupposta all'introspezione, al raccoglimento e al discernimento di quell'arcipelago delle emozioni che si trova in noi e negli altri, e che permette di stabilire una reale comunicazione sulla base della condivisione e della consapevolezza. Una volontà di interrompere i ritmi frenetici della vita moderna, divorata dalla e di riscoprire la propria interiorità, alimentandola di fiducia e di speranza, in un'edificante esperienza personale che si irradierà nel dialogo con gli altri. Una chance, una possibilità di conseguire quella felicità che ciascuno di noi agogna e che tuttavia rimane meno irraggiungibile se costruita sulla base di desideri vani e illusori, superficiali e ingannati. Esiste dunque una solitudine che porta alla felicità, ma leggiamo anche una felicità che porta alla solitudine. Molte sono poi le emozioni e gli stati d'animo che accompagnano e trascinano verso la solitudine e sui quali il saggio si sofferma ampiamente. Particolare rilievo è dato all'emozione della paura. Paura